La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. L'articolo 109 riguarda la polizia giudiziaria. E infatti prevede la garanzia che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Per capire la portata di questo articolo, dobbiamo ripensare alla modalità di funzionamento del processo penale. Il processo penale ha una fase inquirente, cioè una fase in cui avvengono delle indagini, le indagini sono coordinate da un magistrato, il pubblico ministero, ma le attività concrete di indagine non possono essere svolte personalmente dal pubblico ministero ed ecco allora che le svolge la polizia giudiziaria. Normalmente chi compone la polizia giudiziaria? Sono funzionari pubblici che fanno parte o di amministrazioni tecniche dello Stato, quindi di amministrazioni che hanno la competenza per svolgere determinate indagini in determinati settori, per esempio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane, che sono funzionari specificamente chiamati a valutare la materia di imposte, tasse, accise e quindi possono coadiuvare con la magistratura nelle indagini, oppure la normale polizia, la polizia di sicurezza che svolge anche funzioni di polizia giudiziaria. Perché normalmente sappiamo che la funzione essenziale della polizia, cioè di polizia e carabinieri, è quella di garantire l'ordine pubblico, la polizia di sicurezza. Allora a cosa serve l'articolo 109? Serve a garantire che quando i funzionari pubblici svolgono funzioni di polizia giudiziaria sono alle dipendenze del magistrato. Perché è il magistrato che deve coordinare direttamente le indagini. Non è una funzione della pubblica amministrazione quello delle indagini giudiziarie, ma deve essere della magistratura. Ecco allora che l'articolo 109 diventa un articolo importantissimo perché ci garantisce che la polizia giudiziaria è esclusivamente alle dipendenze della magistratura.